forse siamo noi che diamo tutto questo grande, infinito valore alla vita umana. Ci crediamo superiori al cane, al gatto, al criceto, al pappagallino. Invece la nostra vita vale come quella della muffa nel vasetto della conserva. Siamo progettati per autoconservarci e quindi nasciamo, cresciamo e conviviamo in ogni momento con l'illusione che la nostra sopravvivenza sia la cosa più importante dell'universo. E più diventa prioritario difendere la nostra sopravvivenza, più la morte diventa nostra nemica e più ci fa paura. Siamo gli schiavi di una specie capricciosa, specie umana. Se vogliamo liberarci dalla morsa della specie, dobbiamo smettere di adorare la vita. Smettiamola oggi, smettiamola adesso. Poniamo fine a questa tirannia di questa specie spietata per cui siamo dei carrelli usa e getta pieni di DNA. La specie umana è lei che ci tiene schiavi. Liberiamoci, smettiamo di avere paura. Tanto nessuno è mai morto e nessuno è mai nato. It's just an illusion.